داستانو میگه سای سکای گوش بدن خرافه پرستاتون رو باید کنار بیاین با ما اینه تنها را دختری از ایر و تبار مذهبی یه مادر سختگیر و یه پدر عصبی عشق همجنسشون رو رسون به جنون دلخون از نگاه معنا داره اینو زد دلو به دریا گفت من انسانم میگذرم من واسه حقم از جانم مادر عشق نداره که هیچ حد و مرزی نکن با زندگی دخترت باز apriamo questo spazio con queste note di Soyo Sky cantante iraniana lesbica che vive in Canada. Lo spazio di oggi è dedicato a degli eventi che sono successi in Iran in ottobre 2014, quando delle donne hanno subito degli attacchi all'acido da parte di uomini che avevano valutato che loro non avevano messo bene il velo. Abbiamo chiesto a una compagna di dare il suo punto di vista, di commentare questi eventi e come prima cosa di fare sentirvi l'intervista vi leggo un testo suo scritto nell'ottobre 14 e dunque questa compagna esilata politica in Francia da un po' più di 20 anni. Iran, l'inferno islamista contro le donne. Nei 35 anni, il regime islamista ha fatto dell'Iran un immenso campo di battaglia contro le donne. Nel 1979, una guerra senza quartiere, né cessate il fuoco, fu dichiarata prima ancora che gli islamici accedessero al potere. L'immagine di centinaia di maschi che giravano nelle strade di Teheran mostrando il corpo preso a calcidi, una donna detta prostituita, annunciava l'evento del rovesciamento della società che stava per avvenire. Appena preso il potere, la prima azione seguita ai tamburi battenti dagli islamici fu coprire le donne con un velo. Non hanno mai smesso poi di usare nuove armi per questo velamento, in modo di fare scomparire la metà femminile della popolazione iraniana. All'inizio tagliavano col cutter il viso delle numerosi ribelli che rifiutavano di velarsi, scandendo nelle strade lo slogan per istigare paura tra le donne e in tutta la popolazione, o velo o botte. Un licenziamento storico e massivo delle donne è avvenuto da tutti i posti di lavoro e soprattutto dalla giustizia. Coniugato con la pubblicazione di 240 pagine di leggi e decreti per decidere come le donne devono vestirsi, di quale colore e di quale taglia devono essere i loro vestiti. In caso di disobbedienza, sfoggiavano numerose alternative al coltello, come umiliazioni, colpi di frusta, multe pesanti, carcere e stupri collettivi. L'indottrinamento non fu lasciato a mezzo, occupandosi sia delle giovani ragazze che di donne e uomini. Citiamo le feste del velamento per ragazze di 9 anni. Per le bambine gli islamici esigono che il loro corpo sia velato dall'età di 6 o 7 anni, cioè dal primo giorno della loro scolarizzazione. Gli islamici applicarono anche la loro legge basata sulla misoginia della religione, il castigo per la lapidazione. Codificarono anche il valore della vita di una donna. Da allora la vita di una donna varrebbe la metà di quella di un uomo. Metteranno sistematicamente in atto pratiche istituzionali, come lo stupro delle prigioniere politiche dalle guardie, il giorno prima della loro esecuzione, dichiarando che se fossero state messe a morte vergine, sarebbero potuto andare in paradiso. Circa il 10-15% del budget del paese è utilizzato per controllare le donne e costringerle a velarsi. D'altronde, secondo le cifre ufficiali della polizia, più di 500.000 donne sono arrestate ogni anno per hijab sbagliato, cioè un hijab non abbastanza conforme. Quale bilancio fare di questi 35 anni di potere imposto dagli islamici? Dopo 35 anni di una guerra ingegnosa contro le donne, una guerra guidata in modo abominevole, gli islamici Tentano adesso di tornare ai loro piani originali, cioè bruciare le donne, questa volta con l'acido. Per applicare una regola dell'Islam che si intitola ordinare il bene e vietare il male e che costituisce un dovere per ogni musulmano, in nome di questa legge, gli islamici hanno circolato in moto in Isfahan, la terza città dell'Iran, per tirare vitaiolo sulle donne di cui non apprezzavano la tenuta, donne che semplicemente stavano camminando o guidando nello spazio pubblico. Attraverso tutto il Medio Oriente, gli islamici vogliono ridurre la vita delle donne all'interpretazione più settaria, più estremista che esiste nell'Islam, quella che è imposta in Arabia Saudita. La sparizione delle donne dietro un tessuto nero, la loro sottomissione assoluta alla procreazione e alla sessualità degli uomini. Ma veramente credono di riuscire? Malgrado la presenza poliziesca aggressiva a Isfahan, come a Teheran, donne e uomini hanno manifestato contro la violenza dello Stato fascista islamista. Si poteva leggere su alcuni cartelli che mostravano le donne: la cosa che mi spari addosso non è acido, è l'odio di te stesso per il quale non sai che fare. Quest'odio per le donne, un giorno, vi consumerà? E dunque, Iran, l'inferno islamico per le donne, un testo di Anna Pak pubblicato sul sito Sisif. نمنم بارون پشت شیشه هاست لحظه شبنم و برگ گل یاست لحظه رهایی پرنده هاست تو خود عشقی که همزاد منی تو سکوت من و فریاد منی تو خود عشقی که شوق موندنی غم تلخ و بانگ شعرای منی وقتی دنیا درد بی حرفی داره تویی که فریاد دردای منی تو خود عشقی که همزاد منی تو سکوت من و فریاد منی دستای تو خورشید و نشون میدم چشمای بستم و بیدار میکنم صدای تو گوشام دوباره تکرار میکنم زندگی وقتی که بیزاری باشه روز و شب باش همه تکراری باشه شاید عشق برای بعضی عاشقا لحظه بزرگ بیداری باشه Ciao. Qualche settimana fa o mesi fa, nel 2014, a Isfahan e a Teheran, alcune donne hanno subito attacchi con l'acido da parte di alcuni uomini perché le accusavano di essere velate male. Vorrei la tua reazione di fronte a questo fenomeno e in particolare che dici in due parole che significa essere velate male. Déjà, il faut revenir en 1979 où Allora, per prima cosa dobbiamo tornare un po' indietro. Quando gli islamici hanno preso il potere in Iran nel 1979, 3 settimane dopo aver preso il potere, la prima cosa che hanno imposto al popolo iraniano, e in particolare alle donne, è stato il velo. E da allora il velo, imposto con la forza, con la violenza, è divenuto l'emblema del regime islamico. La loro bandiera sul corpo delle donne, ma anche su tutta la società iraniana. E a partire di quel punto, se le donne si rifiutano di sottomettersi a quello che il regime vuole imporre loro, allora sono considerate veramente male, e questo da molti anni. E da 35 anni, ogni volta che c'è una catastrofe o un fenomeno sociologico, per esempio il numero di divorzi è alto o c'è l'inflazione economica, è sempre colpa delle donne. Ultimamente c'è un fiume a Isfahan che si è prosciugata a causa della cattiva gestione delle risorse e di alcuni anni di aridità di seguito. À cause de la sécheresse écologique, la rivière a fini par sécher. Lors de prêches de vendredi, lors de prières le vendredi qu'ils font, les mollahs, ils ont Ma i commencé. mollah nelle preghiere del venerdì hanno cominciato a predicare che tutto ciò è colpa delle donne se il fiume si è asciutto. Si è già visto nel 2005, dopo il terremoto di Bama, che ha provocato la morte di 50.000 persone, a cui sono seguite repressioni, e questa volta per aridità hanno affermato che non basta più la polizia, ma che si deve anche andare a più avanti. Non solo arrestare, multare, ma colpire più fortemente. E colpire più fortemente significa utilizzare una legge che esiste nell'Islam, cioè la nona legge della base dell'Islam. Una legge che dice che devi incoraggiare tutti i seguiti a rispettare tutto ciò che il Corano esige, e se qualcuno va contro la religione, lo devi portare con la forza e la violenza dentro la religione. Si chiama, che purtroppo è una parola araba che è entrata così nella lingua persiana, perché l'arabo è la lingua dell'Islam. De l'amener par force et par la violence vers la religion. Ça s'appelle Amr bi ma'rouf, nahy an munkar, qui d'ailleurs c'est un mot en arabe qui est rentré en tel dans la langue du régime parce que c'est la langue de l'islam. Et donc il y a eu quelques hommes de régime. E dunque ci sono stati uomini del regime che si muovono sempre in moto, che sono andati per esempio ad un incrocio dove si trovava una donna dentro una macchina con il finestrino aperto e l'hanno coperta di acido. Oppure lo hanno fatto a una donna che camminava per andare al lavoro. È sempre stato durante situazioni della vita quotidiana che sono state bruciate con l'acido, essendo l'obiettivo fare tornare le donne a casa, generano la paura in modo che le donne non siano poi nello spazio pubblico. Per un po' ci sono riusciti, poi le donne e gli uomini sono scesi in piazza, a Isfahan, a Teheran, a Mashhad e altre grandi città. Il grido delle donne era: noi non siamo sicure in questo paese. E ho slogan come: potete toglierci il nostro viso, ma non la nostra convinzione e la nostra lotta. E non potete fare niente che ci faccia tornare a Mais casa. pas, on n'est pas en sécurité dans ce pays. Et des slogans aussi. Vous pouvez nous enlever notre visage, mais pas notre conviction et pas notre lutte. Et vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas nous retourner à la maison. Ci sono tantissime leggi che governano questa storia del velo, vero? Il y a 600. Ah sì, ci sono più di 680 pagine di legge per dire come le donne devono velarsi nello spazio pubblico o camminare o essere. C'è un arsenale di leggi da 35 anni, con anche degli articoli che sono stati aggiunti. Ma c'è anche una polizia repressiva per farla applicare. Ci sono più di 30 forze di polizia con nomi e funzioni diversi, in spazi diversi, con poteri diversi che esistono per obbligare le donne a sottomettersi alle esigenze del regime che vuole portare le donne a scomparire sotto il velo. Un po' come succede in Arabia Saudita. Il loro sogno è di portare le donne alla stessa sottomissione in cui sono in Arabia Saudita. Qui voudrait amener les femmes à disparaître, amener les Iraniennes de disparaître sous le voile. Un peu comme ce qui se passe en Arabie Saoudite. Le rêve, c'est amener les femmes iraniennes d'être comme sont en Arabie Saoudite. Quelle est la résistance? Le donne scendono in piazza, manifestano e soprattutto non hanno mai, malgrado la repressione del regime, non si sono mai piegate a che cosa prevede il regime per loro. Perché da 35 anni il problema principale del regime sono le donne. Essenziale del regime sono le femmine. C'è stato un cambiamento 2 anni fa. Il nuovo presidente è stato presentato come un uomo progressista. Vous commentez? Alors, bien sûr, les Occidentaux, à chaque fois qu'il y a un changement de... Alors, certo, ogni volta gli occidentali, ogni volta che c'è un cambiamento in Iran, come sognano di mettere le mani sul petrolio iraniano, presentano sempre la nuova situazione come tutto bene nel migliore dei mondi. E per darti un esempio di cosa è successo, appena c'è stato questo cambiamento, appena Rouhani è arrivato al potere, hanno iniziato a dire che si poteva rientrare nel dialogo. La loro musica ha ripreso. Adesso che significa entrare in dialogo? Significa entrare in Iran e ottenere dei grandi contratti. Tra la Germania, la Francia e l'Italia c'è stata una grande competizione per sapere chi poteva avere più contratti. Per esempio, la ministra degli esteri italiana, non mi ricordo come si chiama, 1 o 2 anni fa, lei è venuta in Iran. Il suo omologo era venuto in Italia e l'aveva invitata a venire in Iran per firmare alcuni contratti. E quando lei arriva all'aeroporto, chissà se non era ben informata, se non lo sapeva o se il regime non si era presa la pena di informarla che doveva venire velata. Dunque arriva all'aeroporto e le è detta di velarsi e lei rifiuta. E nella storia da 35 anni fa è l'unica donna occidentale, donna politica, che va in Iran senza avere messo il velo prima di arrivare. Perché per esempio Rihanna Falaci, numerose ministre della Germania, dell'Europa, una come Elisabeth Guigou, che a quel momento era ministra dello sport in Francia, comunque, sono arrivate già velate. E dunque questa donna italiana arriva non velata. E noi questo l'abbiamo trovato una bella cosa. Ma quando arriva all'aeroporto e dice che non vuole velarsi, chiama il suo omologo che le conferma che deve velarsi. Noi che cosa avremmo voluto? Che questa donna ritornasse in Italia senza avere avuto l'obbligo di velarsi per fare vedere la sua solidarietà con le donne iraniane. Ma alla fine, malgrado la sua resistenza, ha piegato e ha messo il velo per firmare i contratti. In Francia sono stati diversi programmi televisivi per fare vedere che l'Iran si apre, eccetera. Ma da quando Rouhani è accesso al potere? Ogni 3 giorni c'è un'esecuzione e si deve dire che la maggior parte sono donne e dunque l'Europa, i poteri occidentali, perché hanno interessi economici, presentano un viso sbagliato di tutto questo regime. Ma non cambierà mai. Finché il potere sia nelle mani degli islamici non può cambiare. E dans le mani degli islamisti, ça ne peut pas changer. Ogni 3 giorni esecuzione di oppositori politici. Opposanti sì, oppositori politici, omosessuale anche, e soprattutto, e molto, soprattutto donne, perché dette adultaria, ma anche oppositrici politiche, e non parlo delle uccisioni e crimini politici sia dentro le carceri o fuori delle carceri, quando donne sono arrestate, violentate perché non portano il hijab giusto, e poi la loro morte è truccata in suicidio. Parlavo delle esecuzioni pubbliche, dichiarate. Esecuzioni en public, esecuzioni. از مثبت تا مثبت 98 با این آهنگ فاصله رو کم میکنم. جنس زن از منه، عشق من بزنه، آهای گوش بده ببین چی میگه سایست. دوشته all'acido, una tematica che torna spesso nei scritti delle femministe. Ascoltate la poesia di Taslima Nasrin, senza viso. La ragazza si avvicina, il viso totalmente bruciato. Il suo viso non ha più niente di un viso. Si direbbe l'impronta di un mostro nel fango. Il suo bel viso le è stato strappato. Lei si avvicina senza acido in mano. Lei non ha intenzione di gettarti dell'acido in viso. Lei non è così crudele. Lei non ti strapperà il viso. Lei s'avvicina, viene verso di te. I suoi occhi pendono dalle orbite, come due pipistrelli sospesi a un filo elettrico. Il suo naso è spaccicato. Non ha più né labbra né orecchie. I suoi denti sono intatti. Non sono stati bruciati. Sono bianchi e appuntiti. Questi denti non ti morderanno il viso, né il braccio, né il petto, né la gamba, né la gola. No, lei ti morderà e ti strapperà la coda. از مثبت تا مثبت 98 با این آهنگ فاصله رو کم میکنم. جنس زن از منه، عشق من بزنه، آهای گوش بده ببین چی میگه سای اسکای. واسه آزادی زن من واسدادم جلو تیر و ترکش عمرم بابدم. بذار کمی این مسئله رو بازش کنم، راحت بگم رازا رو فاشش کنم. اگه به دید فاحشه نگات کردن، اگه نیکت خواستن صدات کردن، پسر میخواد از حوث و بدن سا که بشنبه صدا نفس زدن تو. بسته نخور توی فاحشه لیستی برشتهی که به سر و زدیش به پیسون. دست رد زدی تو به سینه مردا، مردایی که میخوام فقط تو رو واسه اعزاز. دوش بده بدی ها رو زتن دور کن، باشو باستا و دنیا تو دگرگون کن. اگه فیمیلی عاشق دختر شدی، اگه فاطمه به سر دادی باعث شدی دختر بشن. این جماعت لزبیان با هر عقیده و شکلی و حزبیان. نفرت از کلمه ای که دارم مرده، که نگاه میکنه زن رو به دیده برده. باشو باستا زن آره جلو جنس نر، که دختر رو میکنه جایی که تار و سنگه. زور روزیه نه که ساکت و کوره، نگو نره یه دختر بعید و دوره. اگه جذب زن به یک جنس از خودش، اگه مهر سکوت و ترس مردم، این حقشه که میتونه عاشق بشه. باشو باستا زن آینده در پیشه. آره زنه که به زن آرامش میده، نگو این زنشه که بوی سازش میده. من زن عاشق بیداریم، من سایه یک زن ایرانیم. حالا اومدی میگی تو عشقت زن شده، زن واسه زخمای شب مرهم شده. عشق شکفته تو این دستن ساره، زن با زن گوش اسم بدکاره. میگه حرف حق زن پایه نداره، زن بردشه تا وقتی مایه نداره. مرد هرزه دنبال گوشت تازه، نر کثیف و بسته و حق بازه. خسته شده از این پرپر شدم، واسه شرزش داره دیگه این بدن و تن. آره لزبیانی و حقتو نمیگیری، بیا داد بزن تو زلت نمیری. زن و پوله که میکنه مرد و نشه، توی خون قرده و زن میگیره رشه. آخه نمیشه و نمیخوام تعداد نیست، زنده شدم فرصت نیست. زن و اجتماع و یک ناباوری، سخت کنه داره از این آداوری. تو باید زن بودن تو ثابت کن، تو که مرد از زندگی ساقط کن. زن بیدفاست و مرد نظاره گرشه، دیگه بس زن حالا وقتشه. واسه باور حرفات من واسه دادم، از سایم دختری ثابت قدم. اگه جذب